Ma quale spending review? Basta spese militari, basta guerre. You will not be able to stay home, brother. Cos'ha da festeggiare questa repubblica? I 4 morti al giorno sul posto di lavoro? Le tasse investite nelle spese militari mentre non si arriva a fine mese? You will not be able to stay home, brother. I nostri quartieri che assomigliano sempre più agli scenari di guerra in cui l'Italia è impegnata? Il poter scegliere tra morire di fame o di tumore, come gli operai dell'Ilva di Taranto? La guerra uccide a spese nostre. 2 giugno, ore 17, corteo antimilitarista, da Largo Agosta a Piazzale Pellestrello. You will not be able to stay home, brother. Né con la vostra pace, né con la vostra guerra. The revolution will not be televised, will not be televised, not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.